Volevo avere sul palco per un saluto anche il presidente Nsin, presidente della comunità tibetana in Italia, e Desen Dolkar, presidente delle donne tibetane in Italia, per un saluto che possono salire anche. Ringrazio gli organizzatori Radio Radicale e il Riformista. A nome della comunità tibetana in Italia porto saluto di grande solidarietà che abbiamo ricevuto in questi giorni, abbiamo ricevuto da tutte le parti d'Italia. Io ho fatto l'elenco dei nomi che erano intervenuti. Quindi ringrazio tanto per questo. Quello che voglio dire è che nell'ultimo telegiornale abbiamo visto che Dalai Lama è stato accusato di essere responsabile del protesto in Tibet. Questo è una menzogna. Dalai Lama ci ha guidato per 60 anni in una lotta non violenta. Il rappresentante dei radicali sono andati in India, il Pannella ha abbracciato la via non violenta di Dalai Lama e ha proposto la strategia mondiale, perché noi siamo unici per adesso che seguiamo la via non violenta. La situazione è molto drammatica in Tibet perché non esiste nessuno media internazionale in Tibet. YouTube è chiuso, mentre la repressione continua in Tibet. Quindi, quello che noi chiediamo adesso al mondo è di fare tutto ciò che è possibile, l'Unione Europea, Nazione Democratica, l'America, di sostenere la causa tibetana in modo concreto. Se questo protesto è successo in Tibet adesso, il responsabile sono i regimi totalitari che per 60 anni ci hanno occupato e ci hanno tolto la libertà. Nel 1989 il protesto era soltanto in capitale del Malta. Sono passati 20 anni di silenzio, di abbandono dal mondo, mentre i tibetani hanno sofferto. E 60 anni i tibetani non ce la fa. E dopo 20 anni abbiamo visto la protesta ha espanso tutto il Tibet. Quindi responsabili sono il regime totalitario in Cina. 1,5 miliardi di popolo cinese non sanno niente quello che è successo realmente in Tibet. Soltanto la propaganda del governo cinese che i tibetani fanno violenza. Noi tibetani non abbiamo mai preso le armi. Dalai Lama ha dedicato tutto il suo sforzo in esilio alla educazione e alla pace. Questa è la nostra lotta non violenta. Non ci può abbandonare. Speriamo che questa volta è una volta buona, che il mondo veramente fa qualcosa di concreto per il Tibet. Fra qualche giorno ci sarà Olimpiadi in Cina. È una grande vergogna che Olimpiadi, un importantissimo evento internazionale, si svolga in un paese che ha 3 paesi sotto occupazione, che mette in galera i giornalisti, tutti quelli che critica la partita, i praticanti di Falun Gong, i cattolici. Non c'è libertà. L'Olimpiadi deve svolgere in luogo di pace. Luogo di pace. È vergognoso andare in fare Olimpiadi in Cina, significa legittimare tutto ciò che la Cina fa. E non serve parola per diritti e pace. Bisogna dimostrare infatti, prego a tutti, che questo Olimpiadi deve essere boicottato. Alla fine, quello che voglio dire al popolo italiano è di ripetere quello che ha detto Dalai Lama nell'ultima visita nella Camera, ha detto Dalai Lama: Italia, we need you. Italia, noi abbiamo bisogno di voi. Quindi chiedo a tutti, il governo, popolo, Unione Europea e Nazioni Unite, di mandare un inviato speciale, quello che sta facendo missione Trora, che è una cosa molto positiva. La Cina non manda questo dentro. Se la loro versione è vera, perché non manda nessun giornalista in Tibet? Tibet libero! Tibet! Tibet! Grazie a tutti, grazie.